Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Gorizia in cima alla classifica del Sole 24 Ore tra le città che garantiscono maggior benessere per i giovani under 35, un primato che coinvolge altri due capoluoghi di regione. La panchina di Fabio Cannavaro e il gol di Davis salvano l'Udinese dalla retrocessione. La festa dei tifosi, il mister, avete fatto il miracolo, per tutti eravamo già in Serie B. Saccheggiarono uno stabilimento alimentare a Rivignano Teor con il furto di oltre 1500 cosce di prosciutto, valore del bottino 200.000 euro. I carabinieri di Latisana arrestano 7 persone. Al via i lavori per la nuova terrazza mare di Lignano, che sarà pronta per l'estate del 2026, un'opera di riqualificazione dal costo di 14 milioni. Funziona il bonus psicologo per i ragazzi offerto dalla regione, una misura di cui gli studenti avevano bisogno con il periodo post-pandemico. La sfida dell'intelligenza artificiale, un consorzio per le scienze computazionali che coinvolgerà tantissime realtà in tutti gli angoli del mondo, e la nuova proposta dell'ICTP di Trieste che a novembre compie 60 anni. Oggi è la giornata nazionale del mal di testa, un problema che condiziona fortemente i rapporti sociali di chi ne soffre. Disponibili nuove terapie per una malattia considerata sociale per legge dal 2020. Ancora buongiorno da Maria Spezia ed Elisabetta Zaccolo in studio per questa nuova edizione del nostro giornale radio. Gorizia, città a misura di giovani, lo avete sentito dai titoli, lo dice una classifica del Sole 24 Ore. Al primato italiano del capoluogo esontino si aggiungono il terzo e quinto posto di Trieste e di Udine. Pordenone seconda per la disponibilità di aree sportive. Gorizia è in testa alla classifica dei territori che garantiscono maggior benessere agli under 35, ma nel capoluogo esontino le cose vanno tutt'altro che male anche per i più piccoli, e questo è un primato che riguarda gran parte del Friuli Venezia Giulia. Assieme al quarto posto di Gorizia ci sono infatti il terzo di Trieste e il quinto di Udine. Ottimi piazzamenti, insomma, per il Friuli Venezia Giulia nella quarta edizione degli indici sintetici del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, presentata al Festival dell'Economia di Trento e che disegna la mappa del benessere per le generazioni più fragili e insieme strategiche. Lo scorso anno la regione si distingueva soprattutto per il benessere degli anziani. I bruschi cambiamenti di posizionamento possono essere dovuti all'inserimento di nuovi indicatori, fra i quali quest'anno le trasformazioni in contratti a tempo indeterminato di rapporti di lavoro in essere e l'imprenditorialità under 35 per l'indice dei giovani, e il numero di progetti finanziati con fondi PNRR nell'istruzione e i fruitori dei servizi comunali all'infanzia per l'indice dei bambini. A fare la forza di Gorizia come città a misura di giovani in realtà non è un indicatore specifico, ma piuttosto l'assenza di piazzamenti nella parte bassa della classifica. Chi guadagna buoni piazzamenti sono invece Pordenone, seconda per la disponibilità di aree sportive, e Trieste, medaglia d'argento per numero di laureati, che però d'altra parte si piazza al 107° posto per amministratori comunali under 40. Ai bambini Trieste e Gorizia offrono invece la spesa sociale più alta per famiglie e minori, ma la stessa Gorizia si fa d'altra parte notare anche per la carenza di edifici scolastici dotati di palestra. Infine gli anziani. A Trieste la nota dolente è il numero degli over 65 soli, che la colloca in fondo alla graduatoria. A Pordenone la carenza di geriatri, ma l'addestrataglamento può anche contare su un secondo piazzamento a livello nazionale per il minor consumo di farmaci per la depressione. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca: per il furto di 1500 cosce di prosciutto affumicato del valore di oltre 200.000 euro, i carabinieri di Latisana questa mattina hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal giudice per le indagini preliminari di Udine nei confronti di 7 persone ritenute responsabili, che sono state individuate nelle province di Milano, Foggia e Barletta. Il furto, avvenuto nell'aprile dello scorso anno in uno stabilimento produttivo di Rivignano Teor, è stato investigato in tutte le sue fasi, accertandone le esatte tempistiche e il modus operandi grazie anche alle riprese video acquisite, che hanno riscontrato anche il ricorso a 3 autoarticolati per il trasporto della merce sottratta. Ora torniamo sulla vittoria dell'Udinese, che con Fabio Cannavaro in panchina e con il gol di Davis ha trovato i punti per evitare la retrocessione. In festa i tifosi bianconeri. Salvezza, per fortuna. I tifosi friulani alla fine possono gioire allo stadio Benito Stirpe e a Udine dopo la grande paura della retrocessione. I 95 minuti del film dell'ultima giornata raccontano di un udinese in Serie B per più di mezz'ora dal gol dell'Empoli fino al pareggio della Roma, mentre la squadra di Cannavaro rischia sulla conclusione di Zortea deviata da Okoye e sulla punizione di Soulé stampata sulla traversa. Nella ripresa ancora un palo di Brescianini con deviazione di Bigliol e un brivido per i friulani sugli spalti dello stadio di Frosinone e davanti agli schermi dei locali. Paura che diventa gioia infinita quando Kenan Davis sfrutta l'assist, forse involontario, di Luca per scaricare in rete tutta la voglia della squadra di Cannavaro di restare in Serie A. Il Frosinone non è ancora retrocesso, le lacrime di Di Francesco arrivano subito dopo il gol dell'Empoli nel recupero, quello che manda in Serie B la formazione ciociara. I volti opposti di una classifica che premia la squadra, l'Udinese, che ha vinto più partite, 6, soltanto della Salernitana, 2, ma ne ha pareggiate 19, un record, perdendo per 13 volte, 6 in meno del Frosinone. In Friuli si ripartirà dalla 30ª stagione in Serie A, anche questo un record per una provinciale e forse da Fabio Cannavaro come allenatore. L'obiettivo adesso era quello di la salvezza e poi da domani si vedranno le altre cose, però ci tenevo tanto perché questa è una società che per tanti magari, ecco, tanti giocatori non sapevano, ma è una società storica in Italia e quindi la responsabilità era enorme. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. Il comune di Trieste ha sospeso i controlli di velocità effettuati con gli autovelox in applicazione di una sentenza della Corte di Cassazione che vieta l'utilizzo in tutta Italia di queste apparecchiature se non omologate, benché le apparecchiature siano state regolarmente approvate dai ministeri competenti. L'assessora comunale alla Polizia Locale, Caterina De Gavardo, in un provvedimento ha ricordato che il comando di Polizia Locale è in possesso di 2 autovelox e 2 telelaser, regolarmente approvati rispettivamente dai ministeri delle Infrastrutture e Trasporti e dei Lavori Pubblici. In attesa del pronunciamento della prefettura, a cui il comune si è rivolto il 2 maggio scorso per una valutazione se continuare ad utilizzare le apparecchiature, l'uso di questi apparecchi è stato sospeso. Nelle scorse settimane anche il comune di Muggia ha sospeso l'impiego di autovelox per la stessa ragione. Diamo un'occhiata al tempo, il cielo da nuvoloso a variabile su pianura e costa, da poco nuvoloso a coperto in montagna. Le temperature registrate alle 11, a Trieste 22 gradi, a Gorizia 25, a Udine 23,5, a Pordenone 24, a Tolmezzo 20 gradi, a Forni di Sopra 19, a Tarvisio 18,5, a Biancavallo e Sappada 15 gradi, sul Monte Lussari 9 gradi e 5 decimi, sul Monte Zoncolan 10 e 5, a Lignano 24 gradi, a Grado 22 e 5. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale: per le prossime ore sarà possibile qualche rovescio temporale, più probabile sulla zona montana, venti a regime di brezza. Per domani giornata con tempo instabile, sarà probabile cielo in prevalenza nuvoloso, con rovesci e temporali sparsi. Le piogge saranno in genere moderate, più abbondanti sulla zona montana. In serata probabilmente inizierà a soffiare bora moderata sulla costa. Uno dei simboli di Lignano, la terrazza a mare, verrà riqualificata in chiave antisismica ed energetica, prevista anche una piscina in fondo al pontile. I lavori al via oggi saranno terminati per l'estate del 2026. Inaugurati ufficialmente i lavori per la nuova terrazza a mare di Lignano, ma il cantiere da poco già aperto. Operai impegnati nel rifacimento della struttura simbolo della località balneare che sarà pronta per l'estate del 2026, un'opera commissionata dalla Regione che ha stipulato un contratto con la vincitrice dell'appalto, la Veneta Setten Genesio, costo totale 14 milioni. Inaugurazione preceduta dai discorsi del presidente Massimiliano Fedriga, dell'assessore regionale alle attività produttive Sergio Bini e della sindaca Laura Giorgi. Il progetto prevede la messa in sicurezza e la riqualificazione antisismica, energetica e funzionale di un edificio completato nel 1972, dopo oltre mezzo secolo. Dunque si apre una nuova pagina per Lignano. La nuova terrazza avrà una piscina in fondo al pontile e l'area calpestabile sarà ampliata. Nella prima fase i lavori interesseranno soltanto l'area davanti al tunnel d'ingresso e gli interni. Al termine della stagione balneare è prevista l'espansione del cantiere all'arenile e alle lavorazioni a mare. Si punta a terminare queste opere entro giugno 2025 con l'obiettivo di mettere a disposizione la terrazza a partire dalla stagione estiva del 26, un aspetto di cui il costruttore dovrà tenere conto è la minimizzazione del disturbo visivo e acustico, in particolare durante la bella stagione, in modo da non compromettere l'esperienza del turista che ha scelto Lignano per la sua vacanza. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Saranno circa 2200 i ragazzi che beneficeranno del bonus psicologo offerto dalla Regione, una misura emergenziale post pandemia diventata strutturale con 1,5 milioni di euro di finanziamento stanziato. A detta degli psicologi, lo strumento intercetta giovani che altrimenti non sarebbero mai stati aiutati. Bastano pochi clic per accedere allo strumento. Il bonus psicologo è ben evidenziato nella home page dell'ARDIS, Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio. Con lo SPID il genitore può facilmente far richiesta dei 5 colloqui offerti dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Una misura nata in risposta alla pandemia ed è diventata da quest'anno strutturale, stanziati 1,5 milioni di euro per i prossimi 3 anni, una cifra che riuscirà a soddisfare le istanze di circa 2,200 ragazzi. Il 90% del costo viene pagato dalla Regione, solo 5 euro a seduta aspettano alla famiglia. I ragazzi beneficiari vanno dalla scuola media a quella superiore di ogni sorta, anche i ragazzi iscritti ai corsi istruzione e formazione professionale. Noi siamo con Raffaela Pengue, direttore del servizio interventi per il diritto allo studio dell'ARDIS. A detta degli psicologi stessi, questo strumento funziona perché raggiunge ragazzi che altrimenti non sarebbero stati raggiunti, non avrebbero avuto la possibilità di incontrare uno psicologo. Certo, essendo una misura proprio per il sostenere i ragazzi al diritto allo studio, è una misura che effettivamente va a intercettare gli studenti. Questo grazie anche all'informazione, alla comunicazione che i dirigenti scolastici dell'ufficio regionale scolastico fanno direttamente con gli studenti e le loro famiglie. 500 psicologi finora si sono messi a disposizione, quindi sono facilmente consultabili e sceglibili direttamente nel sito internet dell'ARDIS, ma le chiedo invece, c'è un colloquio preliminare, a cosa serve questo colloquio? Il colloquio preliminare contraddistingue questa misura, è un colloquio che viene svolto da psicologi e professionisti che vengono incaricati dalla Regione stessa attraverso delle procedure di gara pubblica e vanno a, come dire, a svolgere un incontro informativo preliminare per spiegare e illustrare la misura e che precederà poi le effettive 5 sedute. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Poco fa la posa della prima pietra della Casa della Comunità di Tarcento, un hub che prevede un centro di salute mentale e ambulatori specialistici. Sentiamo Denis Caporale, direttore generale dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Prima pietra della casa di comunità di Tarcento, innanzitutto che investimenti sono stati fatti, quando sarà pronta e soprattutto quali saranno gli obiettivi? L'investimento è un investimento importante, siamo circa 8 milioni di euro, di cui 1,589 mila euro con fondi del PNRR e il restante con fondi regionali. L'opera dovrà essere terminata entro la fine del 2025 e accoglierà all'interno dei servizi territoriali fondamentali, appunto la casa della comunità in primis, con altre parte poi ambulatoriale, e dovrà essere sicuramente la svolta del sistema di risposta tra ospedale e territorio, dove il territorio diventa parte fondamentale per la gestione della problematica della salute dei nostri cittadini. Cosa si intende per casa di comunità, visto che non è la prima e ce ne saranno tante altre? Sì, noi abbiamo un programma che prevede la realizzazione di varie case della comunità sui territori, sono funzioni distrettuali dove il medico di medicina generale avrà una parte importantissima per la gestione delle problematiche della salute sul territorio, funzioni che in realtà sono per alcuni aspetti già presenti nella nostra organizzazione distrettuale, ma ampliate e sicuramente con una partecipazione del medico di medicina generale più attiva rispetto all'attuale. anche per vuotare il pronto soccorso. Sì, il pronto soccorso è una risposta che il cittadino cerca, giustamente, nel senso che a volte il territorio manca nelle risposte di salute, per cui il cittadino affolla i pronto soccorsi. Noi stiamo cercando di organizzare le funzioni territoriali in modo tale che il cittadino possa avere una risposta di salute diversa dai pronto soccorsi, per naturalmente i codici minori, per cui al pronto soccorso il cittadino dovrà cercare di andare solamente, dovrà andare solamente nel momento in cui i codici sono codici importanti. Per i codici minori, quelli bianchi e verdi, naturalmente dovremo cercare di gestirli sul territorio. Tarcento, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Un consorzio per le scienze computazionali, dunque anche l'intelligenza artificiale, che coinvolgerà moltissime realtà del mondo. È l'iniziativa che viene lanciata oggi all'ICTP, l'Istituto di Fisica Teorica Abdus Salam di Trieste, che fa capo all'ONU. Oggi è stato avviato un simposio a cui partecipano scienziati ed esperti da tutto il mondo, allo scopo di esplorare le opportunità offerte dall'informatica scientifica nell'affrontare le principali sfide scientifiche con una prospettiva globale. Il convegno è stato deciso proprio per prevedere il modo in cui l'intelligenza artificiale, il calcolo ad alte prestazioni e i recenti progressi nell'informatica quantistica influenzeranno il processo di scoperta scientifica in tutti i campi scientifici, tra cui la scienza del clima, la chimica molecolare e la scienza dei materiali. A spiegare l'iniziativa è stato Sandro Scandolo, capo della ricerca all'ICTP. In questa giornata lanciamo una nuova iniziativa, ha detto Scandolo, un consorzio per le scienze computazionali che coinvolgerà moltissime realtà in tutti gli angoli del mondo. Oggi sono presenti qui circa 200 persone in sala e 500 connessi online da molte nazioni. L'evento fa parte delle celebrazioni per il 60° anniversario dell'ICTP che si svolgono nel corso dell'anno e culmineranno il prossimo mese di novembre. Questa mattina nella sede regionale di Udine dell'Associazione di Legambiente si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del dossier nazionale pubblicato la scorsa settimana. Il documento del movimento ambientalista quest'anno ha assegnato al Friuli Venezia Giulia 5 bandiere, di cui 3 verdi per le esperienze virtuose e 2 nere per iniziative poco sostenibili. Per entrambe il focus è sull'ambiente montano regionale. Ne abbiamo parlato con Sandro Carnielutti, presidente di Legambiente regionale. La montagna vive una duplice crisi, la crisi climatica, le Alpi sono un hotspot del cambiamento climatico, e la crisi demografica. Rispetto a quest'ultima crisi noi abbiamo assegnato 2 bandiere a un'iniziativa di giovani e a un progetto che vanno in direzione contraria, ovvero che fanno sì che le terre alte diventino accoglienti anche per nuovi residenti, però partendo da quelle che sono le esigenze di chi già ci vive. Il progetto viene a vivere e lavorare in montagna, promosso dai CREMARS, con la collaborazione di ben 7 comuni, tra Monti di Sopra, Sotto, Comelian, Resi, Resiutta, Stregna, Savonia. Vogliono diventare terre accoglienti, hanno promosso delle iniziative, ci sono delle risposte importanti in tal senso. La seconda bandiera verde sono la coppia di giovani che risiede in un borgo montano, ha un'azienda agricola caprina, per cui c'è un impatto economico, ma soprattutto sociale, di rianimazione di questi borghi alpini che stanno scomparendo, anche attraverso una relazione positiva con un abitante del luogo che ha facilitato questa esperienza. C'è la terza bandiera verde, è il Parco della Carnia, per le attività di ricerca, divulgazione scientifica. Muovere cittadinanza scientifica significa anche acculturare i residenti e rendere accogliente, a questo punto di vista, anche il turismo culturale. Le due bandiere nere, la prima riguarda un nuovo impianto da sci nel Tarvisiano, che ha avuto finanziamento, no? Che dal Florianca scende a valle con un duplice impatto ambientale da una parte, economico dall'altra. E l'ultima bandiera nera riguarda una rotatoria in comune di Vergennis, assolutamente impattante dal punto di vista ambientale, molto grande, no? Ma anche economico, costa 2,5 milioni. Ma il problema è che non si capisce quale importanza, le motivazioni di un'opera di questo tipo. Oggi è la giornata nazionale del mal di testa, celebrata per sensibilizzare su questa patologia fortemente invalidante che, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, colpisce una persona su due e che nel 2020 è stata riconosciuta in Italia come malattia sociale. Secondo un'indagine d'Oxa, 7 italiani su 10 soffrono di mal di testa una o due volte al mese e 3 su 10 almeno una volta a settimana. Per combattere questa patologia, considerata una malattia invalidante perché l'emicrania costringe la persona ad interrompere tutte le attività anche per più giorni, le terapie devono da una parte essere in grado di bloccare il dolore, ma anche di ridurre la frequenza e l'intensità delle crisi. Antonio Granato, direttore del Centro delle Cefalee di Trieste. Le due grosse novità sono la tossina botulinica di tipo A e gli anticorpi monoclonali. Naturalmente sono dei trattamenti che possono essere somministrati non a tutti i pazienti, quindi ci devono essere alcune caratteristiche per poter accedere a questi trattamenti, e possono essere somministrati solo però dai centri che sono stati riconosciuti come prescrittori dalle regioni. La legge 81 del 2020 ha riconosciuto l'emicrania come malattia sociale, il Ministero prevede finanziamenti alle regioni per finanziare metodi innovativi. Cosa sta facendo la nostra regione? Lo scorso anno ha proposto di stilare una tabella di invalidità delle cefalee e a cui fare riferimento proprio per tutte le commissioni di invalidità della regione. In questo caso sarebbe la prima regione in Italia ad avere una tabella di disabilità dopo che è stata pubblicata la revisione dei criteri diagnostici delle cefalee. Il centro della cefalea di Trieste, dove è in corso l'open day con visite per le donne colpite dall'emicrania cronica, da dicembre è diventata una struttura operativa semplice. Struttura semplice vuol dire avere la possibilità di gestire le risorse economiche e di personale che vengono dedicate in questo caso alle cefalee. In Italia ci sono circa 150 centri cefalea di primo, di secondo e di terzo livello, e di questi solamente 6 sono registrati come strutture semplici, e quindi la nostra sarebbe la settima. Trieste, Vaciucchi, GR, Friuli Venezia Giulia. Il primo maggio di 30 anni fa moriva in un incidente in pista uno dei più grandi piloti di tutti i tempi, Ayrton Senna. A Trieste c'è un'esperta di Senna, è una professoressa di lettere, Vaira Makor, che lo ha incontrato più volte per scrivere la sua biografia e che è stata anche la sua tesi di laurea e che ha raccontato perché Senna aveva attirato la sua attenzione. Io stavo studiando e stavo guardando in sottofondo il Gran Premio di Interlagos del 91, dove Senna non aveva mai vinto, e negli ultimi giri della gara il giornalista, il cronista, stava spiegando che questo pilota stava guidando senza marce, non aveva più niente per guidare, era solo la sua capacità, la sua disperazione a farlo guidare. Dopodiché, quando raggiunse il traguardo, fece un urlo che tutti possono sentire, il famoso urlo di Interlagos, dove dice: non posso più vivere, la gara è finita, no? Quindi simboleggiando proprio che lui era un mito, che la sua vita era quella di correre. E poi lei ha deciso di scrivere la biografia di un mito, il titolo della sua tesi, Ayrton Senna, la sopravvivenza degli antichi valori cavallereschi. Gli ha spedito più volte la stessa lettera finché lui ha deciso di collaborare. Sì. Com'era Ayrton Senna? Era una persona amabile, gentilissima e molto umile soprattutto. Lui parlava sempre di ideali cavallereschi, di nobiltà, di perfezione e di Dio. Teneva molto ad essere un esempio per i giovani. Sì, lui non voleva, era nato ricco, lo diceva sempre, voleva condividere questa sua ricchezza, avrebbe anche voluto fare il prete laico in un futuro, e voleva e cominciava, e stava cominciando, ma la morte lo ha fermato, a formare una fondazione, diremo, per aiutare i bambini, soprattutto a scuola, a recuperarli e soprattutto attraverso lo sport. Lei ha incontrato Senna più di 3 volte, l'ultima 2 settimane prima del fatidico incidente. Che ricordo ha di lui? Lui era un spietato affarista, e vedere che c'era in fondo una concretizzazione di questi ideali, e soprattutto vedere come una persona che dedica tutta la sua vita a una passione, come diceva lui, le passioni non tradiscono mai. In questo caso lo ha tradito, ma comunque il suo destino l'ha vissuto fino in fondo, perché lui voleva morire così anche in un momento e via. Eva Ciuc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sono Sergio Luzzato per Dolore e Furore, una storia delle Brigate Rosse, Fabio Todero per Terra Redenta, Terra Incognita, L'ora delle armi al confine orientale d'Italia 1914-1918 e Filippo Triola per L'orologio del potere, Stato e misura del tempo nell'Italia contemporanea, i finalisti dell'undicesima edizione del premio Friuli Storia. A selezionare la terzina di quest'anno la giuria scientifica dell'Associazione per la Direzione Scientifica di Tommaso Piffer. La terna finalista del premio per il miglior saggio di storia contemporanea edito in Italia è stata selezionata fra 110 opere candidate dagli editori. La fase conclusiva del premio culminerà ora con la scelta del vincitore affidata ai lettori di Friuli Storia, comunità diffusa in tutta Italia ma con radici in regione. Sono 403 i lettori che parteciperanno alla giuria di quest'anno, di loro 256 sono uomini e 147 donne, di cui 236 residenti in regione e 167 nel resto d'Italia. Importante la partecipazione dei giovani, che sono l'11% per la categoria under 30, e nel mondo della scuola a fronte del 18% tra studenti e insegnanti. Con oltre 400 giudici popolari, ha spiegato il presidente di Friuli Storia, Ernesto Galli della Loggia, il premio è quello culturale italiano con la più ampia giuria di lettori ed è anche il più importante premio italiano destinato a un saggio di storia. La proclamazione e la consegna del premio sono in calendario il prossimo autunno a Udine. Chiudiamo con lo sport. Tennis, la britannica Francesca Jones ha vinto la 27esima edizione della Città di Grado Tennis Cup, torneo internazionale femminile inserito nel circuito ITF con montepremio di $60.000, superando in due set per 6-1-7-5 la tennista del Liechtenstein Katinka von Deichmann ed iscrivendo così il proprio nome in un albo d'oro prestigioso che in passato ha fatto registrare successi di giocatrici come Carolina Pliskova e Flavia Pennetta. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio. In redazione ha collaborato Daniela Sossi per la parte tecnica, in regia Giampaolo Zucchi e Roberto Cavallari, e da parte di Maria Spezia ed Elisabetta Zaccolo l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Friuli Venezia Giulia.